America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Fired FBI Director James Comey finally got around to testifying before Congress this morning, the most anticipated moment so far in this endless Russia investigation. Devo dire che la giornata di ieri è stata una delle più caotiche per la credibilità dei processi democratici a livello internazionale. Dall'America abbiamo sentito Jim Comey, che era in audizione davanti alla Commissione Intelligence al Senato. Ci si chiede se non ci sia un fil rouge che lega tre eventi eclatanti di ieri: il fallimento di Theresa May, premier britannico, alle elezioni in Gran Bretagna. La May non è riuscita a coagulare quella maggioranza per la quale, con una certa arroganza, bisogna dirla, aveva convocato le elezioni, e i mercati americani hanno subito penalizzato la sterlina, che è precipitata. Da noi lo abbiamo visto tutti, il fallimento del voto per la legge elettorale. In quel caso la borsa e i mercati hanno premiato l'ipotesi di un rinvio delle elezioni e lo spread è diminuito. Un messaggio chiaro, chiarissimo: l'interesse dei politici non deve prevalere su quello della nazione. Infine, in America, avete sentito il newscaster televisivo, l'audizione di Jim Comey. Ecco, questa audizione ha rivelato un presidente che mette il suo interesse personale politico, naturalmente, davanti alle sue responsabilità costituzionali. E c'è stato un primato davvero storico, perché non si era mai visto un direttore dell'FBI, Jim Comey appunto, accusare il presidente in carica di essere un bugiardo. Tre notizie diverse, ma tre conferme del malessere delle democrazie occidentali. Non so come si svilupperanno le varie sfide politiche nel teatro europeo o americano, ma come ha scritto Edward Luce, editorialista del Financial Times, in un suo libro appena uscito in America, il problema della crisi delle democrazie è reale. Dovremmo reagire in modo collettivo per riprendere saldamente in mano le briglie degli assetti politici. A rassicurarci in qualche modo c'è stata la dimostrazione di orgoglio della Francia, che ha eletto l'outsider Macron, determinato, preparato, ma nel frattempo in altri paesi sembriamo impotenti, volatili, litigiosi, impreparati. Ed ecco la spiegazione del titolo del libro, titolo allarmante ma molto realistico alla luce di quello che capita. Il titolo è «Il ritiro del liberalismo occidentale». Si tratta di un'analisi lucida di come storicamente, nel momento in cui sembrava di assistere al trionfo del modello americano nel mondo, nel momento in cui cadeva il muro di Berlino e si frantumava l'Unione Sovietica, nel momento in cui c'era il dividendo per la pace pronto all'incasso per la fiducia concessa dagli investitori, ecco, poi ci siamo avvitati un po' dappertutto attorno a un senso di mancanza di responsabilità, di maturità di queste democrazie occidentali, che invece avrebbero dovuto trionfare dopo la vittoria contro il comunismo. Take a look at the exit poll here. That is shocking. There's no other word. That is shocking. That is not the expectation at all. And a majority is possible but not certain. Ecco, lascio a voi una riflessione sul collegamento fra questi tre eventi importanti in tre realtà politiche e sociali così diverse fra loro, ma come vi dicevo unite tutto sommato da una comune confusione. Ve le lascio queste riflessioni per una discussione anche a distanza che vorrei continuare la settimana prossima, magari a freddo. Intanto concentriamoci su questo reality show, perché è vero, ve lo dicevo prima, è stato un reality show che ha tenuto l'America incollata al televisore in diretta per oltre tre ore. Da una parte i senatori, gli austeri senatori della Commissione Intelligence al Senato, a fare domande anche, come dire, piuttosto aggressive su certi atteggiamenti etici del presidente Trump, ma anche su certe decisioni di Comey, e domande su certe presunte richieste del presidente di insabbiare dossier chiave per la trasparenza e l'integrità dei meccanismi costituzionali e democratici americani. Dall'altra c'era l'ex capo dell'FBI Jim Comey a confermare implacabile le sue posizioni. Il presidente, di fatto, ha detto Comey, è andato oltre i suoi poteri istituzionali e mi ha licenziato perché temeva che proseguissi con un'inchiesta in modo diverso da quello che voleva lui. It's a fair judgment, it's my judgment that I was fired because of the Russia investigation. I was fired in some way to change, or the endeavor was to change the way the Russia investigation was being conducted. That is a very big deal. Ecco, il primo audio che ho scelto di James Comey è quello in cui l'ex direttore dell'FBI, in risposta alla domanda di uno dei senatori, dice qualcosa nel modo in cui stavo conducendo le indagini e ha fatto sentire al presidente una pressione che voleva alleviare. Sono stato licenziato per cambiare il modo in cui erano condotte le indagini sulla Russia. Ecco, l'interrogatorio ha avuto un momento centrale sugli appunti, appunti che Comey aveva preso dopo ogni incontro con il presidente americano, in quella che lui stesso ha definito un'abitudine che non aveva mai avuto, ma che aveva deciso di introdurre per essere più sicuro di quello che davvero si era detto nel caso ci fosse stato bisogno di confrontarsi su questi incontri anche pubblicamente. Ecco, dice che lo ha fatto perché ero onestamente preoccupato che Trump potesse mentire sulla natura dei nostri incontri. Ero preoccupato dalla persona che avevo di fronte. Ecco, non sono parole leggere e secondo Comey Trump avrebbe chiesto tre cose. Ha chiesto lealtà in una cena del 27 gennaio. Era chiaro che Trump, dice Comey, voleva ottenere qualcosa da me. Sono andato via da quella cena con la sensazione che Trump volesse avere qualcosa in cambio della mia richiesta di restare in carica. E poi voleva che la rivelazione che ha avuto Trump, cioè che non c'era alcuna inchiesta direttamente su di lui, fosse resa pubblica. Ma Comey non ha voluto renderla pubblica perché diceva, beh, poi se dobbiamo invece cambiare, prima diciamo di no, poi diciamo di sì. È una cosa che non deve assolutamente emergere. Infine, beh, uno degli argomenti centrali, I hope you can let him go. E qui Donald Trump parlava di Mike Flynn, suo ex capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, ma suo uomo forte durante la campagna elettorale. Gli diceva, ma insomma è un bravo ragazzo. E dunque i senatori hanno chiesto a Comey se secondo lui questa fosse stata una ostruzione della giustizia. Sentiamo Comey. I don't think it's for me to say whether the conversation I had with the president was an effort to obstruct. I took it as a very disturbing thing, very concerning. Non spetta a me giudicare se questa fosse o meno un'ostruzione della giustizia, lo faranno altri, dice. C'è a questo punto forse la possibilità di un impeachment di Donald Trump? Non credo. Non ci sono delle pistole fumanti, non ci sono delle violazioni della legge da parte del presidente, c'è soltanto un comportamento maldestro e comunque una violazione di certe etiche. E anche se dovesse essere avviato un processo di impeachment, beh, prima che porti da qualche parte ci vorranno 2 anni. L'impatto di quello che sta capitando oggi lo vedremo, se lo vedremo, alle elezioni di metà mandato dell'anno prossimo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su americano24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, dedichiamola al dissidente James Comey che ci ha tenuti incollati ai televisori come canzone del giorno dei Pearl Jam, Dissident. She nursed him there. Wasn't so sure, she wanted him to stay. What to say, what to say. Soon she was down, soon he was low. At a quarter past, a holy note. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento al lunedì. Goodbye and get going!